si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento della domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca. Insomma, cerchiamo di riportarvi il sorriso se siete stufi dopo una settimana di cronaca con il governo che non va, la crisi economica che ci attanaglia. Allora seguiteci come sempre, vi porteremo per altre strade le nostre buone notizie, le nuove tendenze che ci salveranno, e aspettiamo anche le vostre segnalazioni come sempre sulla nostra pagina Facebook. Non la finiremo mai di ricordarvi i nostri contatti. Si può fare trattino Radio 24. Siamo anche su Twitter, si può fare 24, e poi c'è ancora la mail per i più timidi che vogliono scrivere, si può fare @radio24.it. Notizie per esempio così: mobilità sostenibile. Siamo a Parma, la giunta comunale ha approvato il protocollo con la regione per dare seguito, tutte parole un po' burocratiche, poi adesso capiremo di che cosa si tratta, al piano di mobilità regionale Mi Muovo Elettrico. In sostanza a Parma che succede? Adesso chi ha un'auto elettrica si muove con un'auto elettrica, può entrare dove vuole, parcheggiare dove vuole, libero accesso e sosta gratis. Insomma, piccoli incentivi, però si va nella direzione di una mobilità sostenibile che, insomma, sappiamo che farebbe bene sempre di più a tutti. Un'altra notizia che riguarda, sapete che siamo sempre molto attenti a tutto quello che riguarda il mondo della bicicletta, l'idea impossibile, eccola qua. In Italia ci sono più di 5.000 chilometri di linee ferroviarie dismesse, perché non trasformarle in piste ciclabili? È un'idea nata dall'associazione Ferrovie Dimenticate qualche giorno fa e insomma abbracciata con entusiasmo dalla FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Pensate che cosa potrebbe essere una serie di percorsi nell'Italia delle campagne, la riscoperta dell'Italia rurale, percorsi ciclabili incredibili sulle ferrovie abbandonate e dimenticate. Vabbè, questo è un mezzo sogno. Invece quest'altra notizia qua, cittadini consapevoli, vuol dire spesso cittadini organizzati e a volte anche arrabbiati. È quello che accade a Caserta, dove qualche giorno fa 19 cittadini hanno fatto causa allo Stato per la mancata bonifica della discarica dello Uttaro. Insomma, è giusto che ci siano persone che stanno attente alla salvaguardia, alla salute propria e anche dell'ambiente, che si organizzino appunto in modi come questi, con un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Andate avanti, cari amici concittadini di Caserta, perché noi siamo con voi nella battaglia per la vostra salute. Adesso continuiamo a parlare di legalità, ma parlando anche di musica. Ventu, una canzone del Legal Band Project, Legality Band Project, una iniziativa presentata qualche giorno fa a Milano, un progetto che mette insieme la musica, quindi i giovani, ma anche la legalità e la socialità. Cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Abbiamo convocato Francesco Maria Gallo, che è il fondatore. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Fondatore del Legality Band Project, lo ripeto perché prima l'ho detto male. Prima di tutto, questo era dialetto calabrese o sbaglio? Sì, dialetto calabrese, sì, assolutamente. Perché voi venite dalla Calabria? Non tutti. No, sono io che provengo dalla Calabria. Sono nato a Strongolo, un paesino in provincia di Crotone, però poi ho fatto l'università a Bologna. Per quello che ho fatto in realtà non potevo purtroppo rientrare nella mia terra d'origine, quindi sono rimasto a Bologna, poi Milano. Anche questo sarebbe un tema, insomma, da discutere. Insomma, noi abbiamo anche un programma Radio 24 sulla fuga dei cervelli dall'Italia, ma anche dalle regioni italiane. Si chiamava Immigrazione, insomma, questa. Francesco, che si tratta questo progetto che, ripeto, è stato presentato? Adesso noi l'abbiamo messa un po' così in sordina con la musica, però è stato presentato qualche giorno fa a Milano. C'erano un sacco di persone importanti, compreso quell'Ivan Lobello di Confindustria Sicilia, che noi conosciamo per le sue importantissime battaglie per la legalità e contro la mafia. Assolutamente. Legality Band Project è un grande e straordinario progetto di aggregazione sociale e culturale appunto nell'ambito dei processi di cognizione sulla legalità. La differenza rispetto a tutte le altre lodevoli iniziative che, di sensibilizzazione che ci sono in quest'ambito è che Legality Band Project nella sua mission vuole attivare un percorso non solo di sensibilizzazione ma anche di cultura del fare, perché vede, spesso capita che quando si va a parlare nei luoghi, soprattutto in quei luoghi laddove c'è bisogno di implementare una coscienza nell'ambito della conoscenza dei processi di legalità, poi questi ragazzi giovani sui quali si fa questa azione, no, di disseminazione, sì, rimangono, certo, da soli, no? Allora spesso chiedono: beh, adesso ci lasciate solo, ci avete detto cosa bisogna fare, che è giusto procedere verso un senso, un sentimento della legalità, riconoscere il bene dal male, riconoscere l'atteggiamento mafioso dall'atteggiamento non mafioso, però adesso ci lasciate da soli. E questo ci è capitato spesso, e quindi c'è bisogno appunto di attivare il fare. E come pensate di farlo con questo progetto, questo passo in più? Perché è chiaro quello che dice Francesco, cioè noi portiamo questa testimonianza simbolica di legalità, poi però finito l'evento, finito l'incontro, finito il concerto, si rimane così, no? A domandarci adesso che facciamo. Voi volete fare un passo in più, e che cosa proponete di fare? La realizzazione di hub, di strutture che chiamiamo appunto Legality House, o meglio Casa della Legalità, all'interno del quale, delle quali vengono svolte tutta una serie di attività di formazione al lavoro, alla start-up, di impresa, e la focalizzazione chiaramente sono i giovani, che partono da un fondamento che è quello dell'etica e della legalità, attraverso poi un processo di connessione di queste legality house con altre legality house e attraverso una come dire, connessione e collegamento di una rete che vogliamo chiaramente far crescere in Italia e in Europa. Quindi Francesco, fermiamoci un attimo per il traffico, che dobbiamo dare la linea al traffico per vedere come sta andando, e poi continuiamo a parlare, e poi magari so che in questo vostro lavoro vi state appoggiando anche su una rete comunque già esistente. Legality Band Project è un progetto nuovo, però insomma cercate anche di fare rete con quello che c'è già. Adesso cercheremo di capire insieme da dove si riparte per la legalità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia di Francesco Maria Gallo, fondatore del Legality Band Project, non c'è verso, non riesco a pronunciarlo, Francesco, dovete scegliere un nome italiano, perché io ho dei limiti evidentemente. Ma perché in realtà non è italiano, non perché ci siamo, sì, lasciati abbandonare dalla moda degli inglesismi, ma semplicemente perché la questione della legalità non è una questione solo italiana, è una questione europea, una questione mondiale, e quindi, come dire, abbiamo adottato un linguaggio che potesse essere riconoscibile in tutto il mondo. Voi volete creare degli hub, cioè delle legality house dappertutto, insomma, possibilmente. Poi quello che riuscirete a fare, il progetto è nuovo, dicevamo, però voi vi basate già su delle realtà esistenti, state già cercando di fare rete, per esempio. Ma con in quale realtà è proprio questo, perché in realtà non creiamo nulla, ma valorizziamo ciò che già esiste. Vedi, in tutto il territorio italiano, addirittura in paesini, esistono delle realtà straordinarie che già operano in questo senso qui. C'erano delle realtà in particolare che volevi citare? È una realtà straordinaria che veramente voglio citare è a Favara, un centro come dire della mafia, ok? È un notaio coraggioso, mecenate, ha deciso di come dire devolvere buona parte del suo stipendio, no, dei suoi guadagni. Questo notaio si chiama Andrea Bartoli, generando azioni di riqualificazione urbana su Favara, sul centro di Favara, ma non solo la riqualificazione urbana, facendolo a sue spese oltretutto, poi ha avuto anche dei finanziamenti europei, ma poca roba, ma poi è diventato il centro di Favara un centro di formazione ed accoglienza, che vengono da tutte le parti del mondo, di installatori d'arte, di fotografi, di arte contemporanea, un centro di formazione mondiale, pensate, a Favara, che fino all'altro che in realtà è un centro fortemente mafioso. Questo che cosa ha generato? Ha generato oltretutto una coscienza diversa agli stessi abitanti di Favara, no? Che si sono integrati in questa realtà tutta rinnovata, multietnica, multidimensionale, e hanno visto che esiste un altro modo di vivere, che esiste un'altra realtà. Ecco, chi fosse interessato, Francesco, a coinvolgervi, no? Ad avere il vostro apporto, a creare rete insieme a voi su questo tema della legalità, voi naturalmente siete lì che aspettate che qualcuno vi chieda di andare, di fare. Come si fa a entrare in contatto con voi? Basta andare sul sito di Legality Band Project, www.legalitybandproject.org, oppure sui social. E poi insomma c'è tanta musica anche, naturalmente. Tu suoni, no? C'è la band, sì. C'è la band che serve proprio come azione di proselitismo, perché la musica è un linguaggio universale, come dice l'amico Enrico Ruggeri, che ci sostiene, forse il rock è l'unica speranza di salvezza. Lo è sicuramente, perché sensibilizza, perché genera quel sentimento di rabbia e di dolore che poi si trasforma in amore. Bello, questo è proprio il messaggio con cui adesso ci salutiamo. Ci vogliamo salutare così. Grazie Francesco Maria Gallo, fondatore del Legality Band Project, con questa bella frase. Adesso noi continuiamo a parlare, se vogliamo, di legalità, perché legalità può essere anche essere consumatori informati. Io direi che bisogna senz'altro adottare la moneta elettronica per salvare questo paese. Non sarebbero più possibili le valigette piene di soldi che girano per corrompere la gente, e non sarebbero più possibili nemmeno le rapine, non sarebbe possibile nemmeno i furti, la delinquenza verrebbe letteralmente spazzata via dalla cosa pubblica e da quella privata. E sarebbe anche un vantaggio per le imprese. Un'azienda che avesse solo uno o due dipendenti potrebbe tranquillamente demandare allo Stato la gestione dei dipendenti. Tanto il pagamento è solo via elettronica, e lo Stato preleva il pagamento e si prende quello che gli spetta, e la contabilità aziendale delle piccole aziende precipita assieme ai costi dei commercialisti. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. In occasione della giornata europea del consumatore, che si è tenuta qualche giorno fa, è stato presentato un nuovo portale europeo a disposizione dei cittadini europei, per l'appunto, Consumer Classroom, che si presenta come un nuovo sito per l'educazione al consumo, rivolto soprattutto ai più giovani. E allora noi abbiamo convocato Paolo Sospiro. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Professore di economia dello sviluppo all'Università di Macerata e coordinatore europeo e nazionale di questo progetto, di questo nuovo sito, Consumer Classroom. Un portale nel quale si trova che cosa, andandoci sopra a navigare? Allora, intanto è un portale, tra virgolette, un po' atipico, nel senso che siamo partiti da un processo contrario. Siccome in precedenza c'era il portale dolceta.eu, che in realtà era il portale appunto sul consumo, promosso dalla Direzione Generale Consumo e Salute dell'Unione Europea, e che fondamentalmente, diciamo, era un po' statico e, tra virgolette, poco utilizzato, con Consumer Classroom ci siamo domandati perché in realtà su un tema così importante, specie in un momento di crisi, perché viene utilizzato relativamente poco e così via. E quindi abbiamo coinvolto sostanzialmente gli utilizzatori finali. E abbiamo scoperto che in realtà la cosa migliore era poter prima di tutto dedicarci agli insegnanti e agli studenti. Cioè partire dalle richieste, dall'immaginario degli studenti intorno a questo tema del consumatore. Ecco, e quali sono i temi che sono emersi, che sono più importanti perché fascia di età, tra l'altro, si rivolge questo portale? La fascia è tra i 12 e i 18 anni, considerato le diverse, come dire, tipologie di insegnamenti e di modalità anche di curricula che ci sono in diversi paesi d'Europa. Però può essere interessante per ognuno, insomma, farci un giro sopra e vedere... Assolutamente. Ora, qual è la vera novità di questo portale? È che in realtà è un portale interattivo, quindi ci sono delle informazioni di base circa il consumo sostenibile, la finanza, l'economia domestica. Per esempio, tanto per entrare nel concreto, che sempre come bene. Fare, come utilizzare un conto corrente, come calcolare il costo, per esempio come risparmiare energia, come risparmiare acqua, come risparmiare, come dire, il gas e così via. Però tutto non è dal punto di vista nozionistico, cioè è un insieme, come dire, di quiz, giochi, video e tutto il resto. Cioè si utilizzano tutti quelli che sono i nuovi formati e quindi del web 2.0, diciamo, che permettono ai ragazzi, agli insegnanti, ma in generale a tutta la popolazione europea, di poter interagire col sito, di poter condividere il proprio materiale e il materiale trovato in rete e il materiale dello stesso sito. Oltretutto si possono chiedere anche, diciamo, degli interventi da parte di esperti sulle diverse tematiche. Sì. E tra l'altro, infine, c'è addirittura, come dire, una competizione per classi. Quindi c'è la possibilità da parte delle classi che intervengono e si sviluppano un proprio progetto sul consumo e così via, di vincere un viaggio a Bruxelles per conoscere le istituzioni europee e vedere come lavora l'Unione Europea. Per andare a vedere appunto dove si annidano tutti i mali, perché in effetti ci vuole in questo periodo un bel coraggio, no, a lanciare un progetto così, in un momento nel quale dell'Europa si parla, se possibile, sempre male, ci sono le liti tra Italia e Germania, c'è l'euro che viene maledetto un giorno sì e l'altro pure, ci sono questi salvataggi dei paesi in difficoltà che sembrano più che altro dei veri e propri strozzinaggi, insomma. Quindi questo tentativo invece di rilanciare un'immagine anche positiva dell'Europa parte proprio da questo, cioè ci sono un sacco invece di diritti dei consumatori, di cose che si possono imparare, lei ha fatto degli esempi, cose che vengono proprio dall'Europa, che ci vengono incontro a noi come consumatori. Vogliamo fare qualche altro esempio per invogliare? Classico esempio è quello, come dire, delle tariffe telefoniche che sono state abbattute grazie appunto, come dire, alla grossa battaglia che ha fatto l'Unione Europea nei confronti, come dire, delle compagnie. Il secondo esempio è quello del roaming, sempre delle compagnie telefoniche. Il terzo esempio... Che sono temi questi qua che poi interessano tutti, perché quando si parla del telefonino... Sulla moneta elettronica c'è qualcosa? Avete sentito? Non so se ha sentito quell'ascoltatore in segreteria telefonica che auspicava, come molti fanno, fine del denaro contante, solo moneta elettronica, potrebbe essere un bel traguardo. Arriva dall'Europa una spinta su questo? Sulla moneta elettronica l'Europa si sta muovendo in due direzioni. Uno, perché lì c'era un famoso documento Monti... Certo, in questo periodo non va particolarmente di moda il Presidente del Consiglio, però c'è un ottimo documento Monti che era stato realizzato per il Presidente Barroso, il Presidente della Commissione Europea, nel quale appunto si enfatizzavano alcuni passaggi che poi in realtà adesso si stanno cercando di fare. Uno è quello della, tra virgolette, standardizzazione, diciamo, dei sistemi di pagamenti online con la tutela dei consumatori, perché il problema più grosso che c'è per quanto riguarda gli acquisti e la vendita trasfrontalieri, cioè da un paese ad un altro, è chiaramente la garanzia che il consumatore non venga in quanto male truffato. Certo. E questo è un lavoro che sta facendo ormai da diversi anni, ma in questo momento addirittura è diventato prioritario da parte dell'Unione Europea, proprio per accelerare questo processo che appunto che porta sostanzialmente anche alla moneta sostanzialmente, virtuale. E l'altra cosa? L'altra cosa in realtà, che tra l'altro noi abbiamo seguito in parte, è un progetto sempre dell'Unione Europea con i ministeri dell'economia e delle finanze di tutta Europa per standardizzare questo processo tra diversi paesi europei e sostanzialmente velocizzare i pagamenti online. Quindi questo è importantissimo perché permette praticamente una maggiore garanzia di velocità del processo di acquisizione delle informazioni. Questo percorso tra diversi ministeri dell'economia ormai è quasi terminato, e quindi i risultati li inizieremo a vedere probabilmente tra un anno e mezzo, due. Ma nel momento in cui si vedranno in misura notevole. Insomma, se vi abbiamo incuriosito, intanto potete andare sul sito consumerclassroom.eu e vedere un po' le cose di cui abbiamo parlato. Noi ringraziamo il professor Paolo Sospiro dell'Università di Macerata, coordinatore di questo progetto. Grazie per essere stato con noi, professore. Un'ultima cosa, sì. Posso accennarvi che lunedì 15 aprile, presso la delegazione dell'Unione Europea a Roma, in via 4 novembre, presenteremo completamente la versione italiana del sito. Accorreremo numerosi, grazie per averci dato questo appuntamento. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese. But that does not mean that our hearts are not strong. Just like the Phoenix, we'll fucking rise again. La rinascita dell'Araba Fenice la dedichiamo a Succiso, in provincia di Reggio Emilia, il paese che rinasce, il paese riscoperto, tra l'altro, in questi giorni dai media, dalla RAI in particolare, che è andata, ha fatto un servizio, e allora ci dà così il destro, l'occasione per parlare di questo posto davvero particolare. Noi abbiamo convocato Dario Torri, presidente della cooperativa Valle dei Cavalieri di Succiso. Dario, buongiorno. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Ecco, prima di tutto, insomma, una ventata così di novità, di rilancio del vostro vivere, potenza dei media, eh? È una cosa, sì, direi un po' particolare, non ci siamo abituati. La RAI. Non pensavamo sicuramente di aver fatto una cosa così straordinaria. Noi sapevamo di aver fatto una cosa molto buona, interessante, interessantissima, ma che potesse dar risalto non solo a livello nazionale, ma qualcosa un po' più in là. Ecco, è sempre così, ecco, devono essere sempre quelli da fuori che magari non si è mai profeti nel proprio territorio, no? Io voglio leggere una frase virgolettata che ho letto da qualche parte, credo che fosse proprio tu, Dario, che dicevi: quando a Succiso ha chiuso l'ultima bottega, questa immagine è bellissima, quando al mattino non si sentiva più il profumo del pane, e allora il paese ha rischiato di non esistere più. Allora ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dato vita a questa cooperativa, la Valle dei Cavalieri. È nata così, esattamente così. Sì, le frasi sono le mie, ma è la realtà. E questa è una storia che nasce alla fine degli anni Ottanta, agli inizi dei primi degli anni 90, dove Succiso, che è un paesino a 1000 metri sul livello del mare, all'interno del Parco Nazionale Pennino Tosco Emiliano. Posto meraviglioso, naturalmente, io ho visto le foto. Bellissimo, meraviglioso, che adesso fa una 60-62 residenze. Allora ne faceva 175-180 sostanzialmente. Ecco, è un paese che faceva fin 1000 abitanti negli anni 50 sostanzialmente. E poi piano piano si è prosciugato. Piano piano si è prosciugato, come credo una grandissima parte dei paesi simili a noi, stesi lungo l'Appennino. Tutti andavano in città per lavoro, tutti andavano dietro all'urbanizzazione. Si andava in giro per il mondo, per l'Italia, nei centri e quant'altro. E lì, alla fine di quel periodo lì, ha chiuso il bar con annessa la botteghina che c'era una volta, quelle botteghe classiche dove, certo, il pane arrivava due una giorni alla settimana. Una tristezza infinita, immagino, quando ha chiuso. È proprio così. Quindi tra di noi, che eravamo i ragazzi che ha fondato la Proloco alcuni anni prima, ci siamo detti: qui dobbiamo far qualcosa, perché è l'inizio della fine. Poteva essere il punto in cui il paese era destinato a morire. E invece non è andata così. Ma che ruolo ha giocato questa cooperativa di cui si parla molto? Ha giocato un ruolo fondamentale, perché al di là del titolo cooperativa, la forma giuridica che ci sembrava più appropriata, è che abbiamo messo insieme i ragazzi che avevano 22-23 anni di allora, una ventina, con loro le famiglie erano tutte d'accordo, e abbiamo deciso di formare la cooperativa e di ristrutturare quello che era diventato il centro civico di una volta, dove c'era la scuola che aveva chiuso, l'ufficio postale che aveva chiuso, quindi in disuso da alcuni anni, di proprietà del comune, l'abbiamo recuperata, ristrutturata, e lì subito abbiamo aperto il bar e il negozietto. E da lì è nata la cooperativa. Sostanzialmente poi nel corso degli anni ha cambiato, è diventata un'attività polivalente, ha fatto delle opere molto importanti che possiamo anche parlarne, ma da lì è nata la cooperativa, è diventata una cooperativa paese. Sostanzialmente c'è il coinvolgimento di tutti gli abitanti nel servizio che eroga la cooperativa, e la cooperativa dello stesso tempo dà un servizio primario e fondamentale ai residenti lì e ai paesini limitrofi. Ecco, tenete conto che adesso il pane c'è tutti i giorni, perché lo facciamo lì noi con i nostri dipendenti, c'è la bottega che è aperta tutto l'anno, abbiamo dei prodotti tipici che facciamo noi, il pecorino dell'Appennino reggiano, abbiamo un allevamento di pecore, abbiamo l'attività agrituristica. Ma quanti siete? Siete in pochi ancora, no? Non è che siete mille? Fate tutte no, queste cose. No, se adesso siamo, quando nevica, ma il bello è questo qui, che quando nevica siamo in 60-62 persone, ma il fine settimana, sì, di tutto l'anno, rientrano quasi tutti quelli che lavorano 20, 30, 40 chilometri e torniamo ad essere 180, 190 di allora. Ma nei periodi dei ponti, di Pasqua, primo maggio, da maggio in poi tornano a essere 300-400 persone fino a una punta di 800-900 per 3 mesi l'anno. Quindi insomma c'è vita. Sì, c'è vita tutto l'anno, le case non hanno perso di valore, che è importante, le case vengono ristrutturate, non c'è il vendersi come si trova da tante parti. Cioè è un beneficio della collettività generale, non solo di chi lavora lì, ma è un beneficio per il territorio fondamentale, questo è un punto di presidio. Guardate che nelle zone come le nostre, dove i centri sono a una quarantina di chilometri, avere chi è lì, chi continua a fare la spalata della neve, chi guarda il canale, chi guarda il fosso, chi guarda il fiume, cioè è fondamentale. Insomma, un'altra frase che mi ha colpito, che ho letto sempre in questo articolo che parlava di voi, è che insomma, per fare dopo più di 20 anni, credo sia sempre tu, Dario, a parlare, sì, possiamo dire di aver fatto una cosa importante. Ci vuole quindi tempo per fare delle cose importanti. Vuole, mi sembra anche vuole, questo il messaggio. Ci vuole, no? Tempo, ci vuole tempo perché. Speriamo non vi sentano a Roma, al Parlamento, perché già di tempo se ne stanno prendendo parecchio. No, ma che no, ma anche lì bisogna. Anche loro dovrebbero avere un po' di buon senso, perché questi anni qui ci vogliono, ma fare sistemi burocratici. Fra tutto quello che abbiamo in giro per l'Italia adesso. Adesso è un vero disastro, noi oltre che dobbiamo aprire un'attività, era un disastro, ma per dirla in poche parole, perché non è oggetto di discussione di questa intervista, sì, volevamo aprire noi il tabacchino all'interno della nostra attività. Allora, pensate che una cooperativa non può avere una licenza di monopolio dello Stato, non possiamo aprire i tabacchi, deve essere una persona fisica. Maledetta burocrazia anche lì, insomma. Maledetta burocrazia dappertutto, comunque ci vuole del tempo, ci siamo riusciti, non è detto che abbiamo inventato l'acqua calda, perché non è vero, è probabilmente un progetto esportabile da tante parti, simile alla nostra si può fare, è il gruppo che è fondamentale, c'è qualcuno che deve tirare il carrettino, e il gruppo è fondamentale. Ecco, qual è il vostro segreto? Insomma, il gruppo. Il gruppo, guardate, il gruppo, perché noi abbiamo una trentina di ragazzi che hanno più o meno la mia età, qualche anno in più, qualche anno in meno, ma che tu, quando c'è bisogno, si tirano sulle maniche a titolo di volontariato, se c'è da fare una cosa si fa, manifestazioni, feste, piccole ristrutturazioni, c'è da rimettere a posto qualcosa, siamo lì. Io quello che faccio, lo faccio a titolo di volontariato. Però Dario, sarà banale, no? La cosa che sto per dire, però in un paese come il vostro, insomma, in cui siete oggettivamente in pochi, in pochini, questa solidarietà, no? Questo gruppo è più facile da fare. È bene comune, ci conosciamo tutti, è una famiglia grande, allargata. Cioè, noi sappiamo tutto di tutti ed è così. Al mattino, quando uno dei nostri dipendenti va a Ramiseto che porta giù i bambini a scuola, se c'è uno che ha bisogno della farmacia, si portano le ricette, si porta la roba, insomma. Ognuno pensa un po' a tutti, ma c'è anche la motivazione, forse. Cioè, voglio dire, voi è come se aveste combattuto una battaglia, no? La battaglia per non far morire il succiso. Bravo, e questa cosa vi ha dato una spinta fortissima. Ci vogliono queste motivazioni. Ci vogliono e sono fondamentali, perché sennò non ci sarebbe lo scopo. Però il risultato alla fine si è trovato, ripeto, perché i nostri concittadini si ritrovano in una posizione bella, ambita, si ritrovano i propri fabbricati a posto, perché la gente li ristruttura, non li lasciano decadere, tutti quanti, non solo quelli che ci abitano continuamente. Quindi vuole dire che c'è un benessere generale che alla fine viene condiviso da tutti quanti. Vi sentite come vi sentite, dare una specie di isola felice, oppure questo vostro vivere sospesi in questa vostra... Non è vero, perché le difficoltà ci sono anche da noi. Non è quello, però rispetto a tante altre realtà che vediamo purtroppo che tendono a chiudere o ad essere disabitati, ci sentiamo un po' in un'isola fortunata. Insomma, quindi adesso sono tante le attività che si fanno lì da voi, ho capito bene, c'è la pastorizia, noi prodotti artigianali. Sì, esatto. Esatto, prodotti artigianali, è un'attività polivalente, noi abbiamo, ripeto, il pecorino reggiano, abbiamo la ricotta, alleviamo degli agnelli per il nostro agriturismo, cioè siamo in contatto con il turismo di comunità, con le attività vicine, c'è un agricoltore, c'è il parmigiano reggiano con il caseificio. Su che prezzi si aggira una seconda casa se uno volesse venire lì a pensarci? Ecco, così vi rendete conto, sì. No? Con i prezzi che girano avanti. Noi una casa da noi costa sì 1000 euro al metro quadrato, quindi una cosa fattibilissima. Quindi una casetta da 60 metri, così per le vacanze, 60.000 euro. Con 60.000 euro, insomma, una famiglia che ha messo da parte qualcosa, ma che sarebbe impensabile andare altrove. Bravo, esatto, proprio così. Ma anche i prezzi che si trovano da noi al ristorante, che è un prodotto di qualità, perché si fa tutto lì, fanno tutti lì, cioè si pranza dall'antipasto al dolce e al digestivo con 22-23 euro, cioè si fanno un assaggio di primi, di secondi prodotti. Bevendo che cosa? Lambrusco da quelle parti? No, Lambrusco dalle nostre parti, però noi abbiamo l'incidenza del toscano, perché noi siamo proprio vista ridotti, toscana, da... certo. Sì, esatto, abbiamo un'influenza toscana anche. Bah, meraviglia, insomma, grazie Dario Torri. Niente, grazie a voi. Grazie a voi. Continuate così, che dire, insomma. Anzi, speriamo di sì, che ci sia qualcheduno che comunque ci sente, che ne approfitti. Bravo. Per dire, ci dovreste aprire una scuola per tenere dei corsi di aggiornamento, non so, di amministrazione, di come si amministra una piccola comunità. Grazie per tutto quello che fate, a Succiso. Con questa bella canzone, insomma, corale dal titolo Home, entriamo in argomento. Una casa di legno, chi non ha sognato forse da bambino o anche da adulto di vivere e di vedere anche una casa di legno accogliente, morbida, bella anche, no? E profumata. E questo sogno diventa realtà se andiamo in provincia di Udine, per l'esattezza a Sostasio di Prato Carnico. Parliamo però di un progetto che ha avuto il riconoscimento unico al mondo di una importante certificazione. Quindi è una cosa particolare. Abbiamo convocato l'ideatore, il realizzatore e nonché credo anche la persona che ci abita in questa casa, Samuele Giacometti, ingegnere. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Samuele, ci vivi poi dentro questa casa realizzata tutta di legno? Vorrei credere, altrimenti cosa ho fatto a fare? Un lavoro, si può dire, della Madonna, senza offendere nessuno, perché è un progetto lungo. La cosa interessante, adesso ci racconterai tutto, è che questo progetto ha avuto questa certificazione che si chiama PEFC, Program for the Endorsement of Forest Certification. Io pronuncio in inglese da cani, però insomma è questo. Sì, questo qua. Che significato ha sta roba? Che cos'è? No, niente, il PFC ha praticamente certificato che questa casa è stata realizzata con materiale prima che viene da una foresta gestita in maniera sostenibile. Quindi si parte addirittura dalla foresta, cioè la foresta è gestita in maniera sostenibile, quindi il legno che ne deriva di conseguenza... dal bosco e soprattutto tutti i passaggi, quindi dalla legno pianta, legno tronco, legno trave, legno casa... sono stati monitorati e sono stati, diciamo, certificati nella loro sostenibilità ambientale. Noi abbiamo letto questo articolo che parlava di questa storia bellissima sul sito Il Cambiamento del nostro amico Daniel Tarozzi, che è sempre ricchissimo di spunti, e insomma, già leggendo la descrizione sembra di essere lì, no? Poi le foto ci sono naturalmente, e si sembra di sentire anche il profumo, no? Di questa casa di legno. Ma difatti la grande potenza che ha il legno è proprio quella di risvegliare i sensi, solo che bisogna rispettare determinate condizioni. Ad esempio, se uno prende un pezzo di legno e ci mette sopra una vernice, non ha più contatto con il legno. Quindi la difficoltà sta quello di cercare di anche accettare il legno per quello che è, e quindi è un materiale che risveglia questi sensi, ma noi non dobbiamo mettere delle barriere contro questo materiale. E quindi nella fattispecie casa tua non è verniciata? Assolutamente no. Metti non sa di legno, ecco. Quindi ci sono però delle tecnologie alternative, voglio dire, oppure devi stare attento a tutto perché sennò si sporca tutto, non so. No. Non allora, è impermeabile, il freddo, il caldo e quant'altro. Allora, io questa costruzione l'ho fatta di legno e ho fatto in modo di non trattare questo legname perché poi vivendo in questa valle mi sono girato intorno e ho iniziato a vedere che cosa c'era di esistente di legno. E allora la domanda che mi sono fatto vedendo delle strutture del 1800, nel 1800 che trattamenti facevano questo legno? Ah certo. E quindi ho scoperto che per utilizzare legname come nel 1800, come negli anni passati, bisogna rispettare determinate conoscenze, saperi nel trasformare, nel saper scegliere le piante, nel saperle abbattere nel momento opportuno, nel saperle sezionare in un certo modo, nel saperlo stagionare, cioè quei saperi che ancora ci sono nelle Alpi, a ridosso del bosco, ma poco valorizzati. Cioè c'è tutta un'arte, no? da sapere, da conoscere dietro a questa cosa qua, che insomma, noi abbiamo incuriosito per via di questa importante certificazione, certo, ma anche per via di questo così esperimento, no? di scoprire un modo diverso di abitare. Per esempio ora in questi giorni qua a Milano c'era il Salone del Mobile, non è che ti hanno invitato a te? Ma no, non mi hanno invitato, ma io sono veramente molto una minuscola pulce che però continua a lavorare ormai da 6 anni su questa strada. Perché da questa casa è nata prima la casa o prima poi l'azienda con la quale adesso lavori in questo settore? No, è nata prima l'idea, poi è stata fatta la casa e poi questa idea, questo progetto che si chiama Sa di Legno, e si è trasformata anche in un'impresa. E adesso l'impresa è quella di riuscire a fare una rete di impresa collegando tutta la filiera legno, dal bosco fino all'oggetto di legno, che può essere una casa, ma anche il mobile, uno strumento musicale. Perché solo se io collego il mercato alla foresta riesco a valorizzare la foresta e la filiera. Ecco, però diciamo anche una cosa, insomma, realizzare una casa di legno così bellissima, io immagino, e però siamo appunto a ridosso di queste foreste, in Friuli Venezia Giulia, certo, partite avvantaggiati perché siete già in un posto meraviglioso, lo conservate, contribuite a conservarlo bene, ma io che sono in una città, che sto a Milano, questa cosa qua è replicabile? No, oppure in che modo uno ci si potrebbe adoperare? Ma allora io partirei da questo stato dell'arte. Attualmente le case di legno che vengono costruite sull'arco alpino sono fatte con il legname che nel 90% dei casi non è dell'arco alpino italiano, ma è di un altro arco alpino o di un'altra addirittura nazione. Quindi c'è uno spreco nei trasporti, in tutto. Quindi il discorso è questo, che attualmente si costruiscono case di legno senza utilizzare legname italiano. Per cui tu allora, dici, cominciamo almeno a fare questo, cioè usiamo il nostro legname. Poi, dal mio punto di vista, una casa così come è fatta la mia casa, non ha senso vederla in centro a Milano o in una periferia di una città. Ho capito, chiaro il messaggio. Se vogliamo godere di tutto questo, dobbiamo venire noi lì e non trasportare voi qua. Io ci ho provato, però. A Milano ci sono tante altre cose belle che qua non ci sono e quindi uno deve fare una scelta, purtroppo. E allora ci toccherà venire a trovarti, Samuele Giacometti, per vedere questa casa di legno super certificata che si trova a Sostasio di Prato Carnico in provincia di Udine. Com'è? Grazie intanto per essere stato con noi, per averci raccontato questa storia. Grazie. Grazie a voi. E allora per oggi ci fermiamo qua. Io ringrazio Franco Piantanini in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo sabato prossimo. Mi trovate su Twitter @AleMaurizzi. Buona giornata.